Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, microphone check, check 1 2. Sound check, il suono della musica di Gegé Telesforo. Sì, è difficile affrontare questa puntata, questa domenica qui dal Groovemaster Studio per il soundcheck di Radio 24. Buonasera a tutti voi e buona domenica da Gegé Telesforo, e vado a salutare e a ringraziare per questo meraviglioso anno di musica i miei collaboratori preferiti, immancabili. Hanno lavorato tantissimo e quindi con grande affetto li abbraccio, ma poi vi bacerò sul serio. Silvia Barba e Francesco Tromba, eccoli qui. Ciao a tutti, grazie a te Gegé. No, grazie a voi, grazie Francesco, grazie per tutto il lavoro che avete fatto anche quest'anno. Grazie a voi due, siete stati dei compagni fantastici. Bene, sì, siamo partiti subito con i ringraziamenti, e una sorta di emozione sicuramente viene fuori dal tono della nostra voce, perché questo è l'ultimo appuntamento del soundcheck stagionale. Per ora mi posso soltanto dire che è l'ultimo appuntamento stagionale, non posso aggiungere altro, perché sapremo notizie prossimamente sul futuro del nostro programma qui su Radio 24, ma siamo fiduciosi, siamo contenti e siamo felici soprattutto perché sappiamo di aver svolto un lavoro in maniera sana e naturale. Beh, ci siamo anche molto divertiti durante tutto l'anno a scoprire nuovi talenti, ad affermare quelli che erano i talenti che insomma già conoscevamo. Insomma, è stato un anno intenso, davvero abbiamo scoperto tantissima buona musica, e questo è l'importante. Sì, e poi ringraziamo anche tutti gli artisti che sono venuti qui al Soundcheck a raccontarci le loro avventure, il loro modo di vedere anche la musica. Sì, io invece voglio proprio ringraziare i radioascoltatori di Radio 24, lo voglio fare personalmente perché sono stati molto attenti quest'anno, più delle altre edizioni. Io credo che si sia consolidato con il tempo un po' l'ascolto e l'affetto anche nei confronti del nostro programma, in un emittente, in un network importante, fatto di parole essenzialmente, di grande informazione, fatto da grandi professionisti. Quindi per me è stato un onore lavorare su questa formidabile emittente, che mi ha dato la possibilità di potermi esprimere liberamente, proponendo la mia musica preferita, ed è quello che abbiamo fatto. Quindi grazie ai radioascoltatori di Radio 24. Attenti ed esigenti, perché li abbiamo, come dire, istruiti bene. Ogni tanto ci facevano anche delle critiche che, nonostante l'impatto iniziale, ci hanno davvero stimolato. Quindi grazie ancora, continuate a scriverci, perché poi durante l'estate noi siamo sempre lì a rispondere alle vostre mail. Intanto perché è il nostro lavoro, dobbiamo andare avanti, continuare a tenerci aggiornati, perché nella vita comunque la musica ci gira intorno 24 ore su 24. Quindi personalmente adesso chiuderò lo studio per qualche mese per andare in giro e continuare le mie avventure sul campo, proprio con i concerti e tutte le cose che ho da fare. Però insomma abbiamo ancora un po' di minuti a disposizione, dai, ragazzi. Direi di utilizzarli al meglio, così come abbiamo fatto ieri, che abbiamo presentato il suono di questa edizione, quello che ci è stato regalato dagli interpreti della black music contemporanea dell'R&B. Direi questa sera di chiudere con le produzioni discografiche più jazz, quelle che in qualche modo hanno caratterizzato questa stagione. Che dite? Sono d'accordo, Francesco. Sei d'accordo? Pienamente d'accordo. Bene, allora se siamo d'accordo tutte e tre, speriamo siano d'accordo anche i nostri amici radioascoltatori. Sì, mi sembrava quasi, come ultima puntata, non carino presentare delle novità. Magari quelle ce le conserviamo per la prossima stagione, no? Va bene. Ecco, allora direi di andare subito con qualcosa di più tradizionale, come l'album recentissimo di Diana Krall, ormai una campionessa di jazz, che dopo le ultime avventure discografiche circondata da grandi grandi organici che erano messi a sua disposizione poi da un producer come Tommy Lee Puma. Ecco, questa è un'altra grande perdita che abbiamo avuto quest'anno. Diana Krall torna sempre per la produzione di Tommy Lee Puma, quindi un album postumo, potremmo dire, per il grande producer americano. Sì, è l'ultimo album che ha prodotto praticamente. Ecco, Diana Krall torna al piccolo combo, al piccolo organico, rifacendosi alle vicende di Nat King Cole, quindi pianoforte e voce per Diana Krall. Poi c'è il contrabbasso magnifico di Christian McBride e poi varie collaborazioni, chitarra, batteria ogni tanto e anche un violinista che ci riporta proprio al periodo di Stefan Grappelli con Django Reinhardt o Giovenuti addirittura. Il brano, un classico del jazz, Unconfessing That I Love You, al soundcheck di Radio 24. I'm confessing that I love you over again. Eh sì, Diana Krall protagonista anche quest'anno con questa recente produzione. Devo dire che è stata protagonista proprio delle ultime settimane del nostro soundcheck, perché l'album è stato pubblicato non più di un mese fa. Francesco Tromba e Silvia Barba hanno tirato fuori i fazzoletti. No, ma perché? Sto scherzando, vi vedo pronti proprio per l'estate e per le vacanze, ragazzi. Beh sì, e questo è vero, però siamo un po' emozionati. Sai, l'ultima puntata, si fa un po' una fotografia sonora di quello che è stato il soundcheck e io personalmente sono emozionata, non so se Francesco riesce ad emozionarsi. Sì, anche io. Tu dici come calabrese appassionato di Nduja? Sì, che lui è uno tosto, capito? Allora le emozioni, non so, le esprime, sì. Sì, magari non traspare subito, però. Bene. Va bene, vi piace Till Bronner? Beh, tantissimo. Ecco, a me poi questo disco ultimo che ha fatto, una specie di tributo a Chet Baker, è piaciuto tantissimo e sono contento perché quando lo abbiamo presentato, dedicando proprio al Till Bronner un bello spazio, poi il feedback è stato notevole. Addirittura una grande giornalista, come la mia amica Paola Saluzzi, che tra l'altro è formidabile, un'amica, una bellissima donna, mi ha scritto: grazie, ho comprato subito Till Bronner e mi sta accompagnando nelle mie avventure nella mia vita, quindi... Eh beh, è un gran bel disco in effetti, e ringrazio anche Paola Saluzzi. E certo, e anche Paola Saluzzi è una gran bella donna. Sempre. La salutiamo. Ciao Paola, Till Bronner, I May Be Wrong, al soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. E questo invece è il suono contemporaneo di un giovanissimo protagonista della scena jazz contemporary, Braxton Cook, al soundcheck di Radio 24, dall'album Somewhere in Between. Never Thought il titolo di questa composizione. Braxton Cook noi lo abbiamo conosciuto perché uno dei membri della Stretch Music di Christian Scott. L'abbiamo proprio incontrato quando andammo 2 anni fa a vedere Christian Scott Stretch Music a Perugia. Ci abbiamo proprio cenato insieme. Forte, eh? Molto. Sai che questo disco è bellissimo, io lo consiglio a tutti gli appassionati di jazz contemporaneo, perché è un disco dove viene fuori non solo il talento del musicista ma anche il talento del compositore, arrangiatore e di un protagonista della nuova generazione. Secondo me Braxton Cook sarà uno dei punti di riferimento del prossimo futuro. E ci tiene proprio a ribadirlo, si definisce un alto sassofonista ma un songwriter, e quindi un incrocio tra John Coltrane, che fonte di ispirazione, e Frank Ocean. Addirittura, sì. Pensa a te. Infatti io lo consiglierei a tutti gli appassionati di musica in generale, non solo agli appassionati di jazz, perché comunque la sua idea è quella di unire i generi il più possibile eliminandoli. Esatto, ed è quello che stanno facendo i protagonisti della nuova generazione, e fra questi ce n'è uno che noi amiamo molto come musicista, perché lo abbiamo visto in organici importanti, da Cosé James a tutta quella scena contemporary R&B, quel versante che sta fra l'hip hop e il jazz contemporaneo. Questo signore è un batterista forse fra i migliori degli ultimi anni, e si chiama Nate Smith. E finalmente Nate Smith ha pubblicato, dopo vari brani presenti nelle sue pagine in internet, quindi da SoundCloud e Bandcamp, finalmente ha trovato il coraggio di pubblicare, naturalmente con il supporto di un'etichetta che noi conosciamo bene e che amiamo molto, che è la Rope Dope. Finalmente ha pubblicato questo Nate Smith Kinfolk. L'album come si intitola? Si intitola proprio Kinfolk. Kinfolk. Allora, che ne pensate? Beh, come dice Jose James quando lo annuncia, The Incredible Nate Smith, sì, The Legendary. Sì, è veramente leggendario. E poi è anche un eccellente produttore discografico, un suono impeccabile, formidabile quando si tratta di groove, bravissimo anche quando deve swingare questo ragazzo. Produttore anche di musica da film, di colonne sonore, quindi un artista a tutto tondo. Assolutamente, Nate Smith, King Folk, qui al Soundcheck. Il brano si intitola The Wait, con la partecipazione di Amma Watt. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. There I am. Eh sì, anche quest'anno vi abbiamo proposto tutte le cose migliori, perlomeno quelle che ci sono capitate a tiro, ma siamo andati a ricercare tantissimo, tante cose belle anche nel mondo di internet, e dal mondo di internet abbiamo trovato anche il talento di questo giovane pianista californiano chiamato Ted Case, che tempo fa ha realizzato questo brano bellissimo, una bellissima ballad intitolata There I Am, chiamando Amber Navran, sassofonista, cantante dei Moonchild. Li abbiamo ascoltati anche nella puntata di ieri, perché ultimamente è stato pubblicato il nuovo album, e poi questa scoperta favolosa, forse uno dei vocalist da tenere d'occhio per il prossimo futuro, il bravissimo, fortissimo Michael Mayo. Se io dovessi produrre un nuovo album con Fun Slow Ride, lo sto già facendo, ecco lui è uno dei vocalist che terrò presente per alcune composizioni. Beh, perché sei attento alle nuove generazioni, ma non solo tu, perché in America, negli Stati Uniti, è richiesto da quando si è trasferito a New York. Sì, sì, collabora con tanti artisti perché ha una vocalità allora, molto particolare. Lo devo chiamare subito. Sì, perché ti devi magari sbrigare. Se perdo tempo mi chiederà troppi soldi per collaborare. Beh, è giovane, ancora deve fare la sua esperienza, però ti consiglio di chiamarlo presto. Beh, abbiamo l'appeal italiano, no? Magari lo chiamo proprio a registrare in Italia, forse è meglio. Tra l'altro ci aveva pure ringraziato via Twitter quando avevamo messo in onda per la prima volta questo brano. Ma lo voglio ringraziare io, Michael Mayo, per la bellezza della sua vocalità, il suo timbro e per questa bellissima composizione. Insomma, non ha ancora pubblicato un suo disco, un disco a suo nome, ma lo vogliamo tenere d'occhio, ok? Ok. Promessa? Promessa. Promessa. Va bene ragazzi, abbiamo fatto. Praticamente abbiamo il tempo per fare i nostri ringraziamenti, i nostri saluti, ancora una volta passare l'ultimo brano, chiudere lo studio, andare a bere il nostro prosecco, abbracciarci e commuoverci. E salutarci dandoci appuntamento a tutta l'estate, perché noi continuiamo secondo me a lavorare, a scoprire nuove cose, a scrivere sulle nostre pagine social tutte le nuove proposte e tutti i nuovi album che ascolteremo. Ma sul serio lo farete? Io lo farò. Beh, scusami, sulla spiaggia ascolta io le cose. Continuo a farlo, no? Utilizzando... Tu sarai in giro e va bene. Vabbè, però insomma un po' di informazioni le diamo per gli amici. Guarda che Francesco è peggio della CIA. No, quello scova sa delle tu. Cose. No, quello sa tu. Non mi mollo un secondo, è tremendo. Anzi, io voglio approfittare e vi voglio ringraziare, perché siete stati bravissimi, siete stati importantissimi per me quest'anno, perché... sapete quante cose abbiamo fatto e quanto è stato complesso anche in alcuni momenti di questa stagione per me lavorare e realizzare anche il soundcheck. Quindi siete stati importantissimi, vi ringrazio proprio dal profondo del cuore e vi auguro di trascorrere una bellissima estate e di divertirvi naturalmente con la musica e anche senza la musica. Siamo noi che ti ringraziamo perché ci hai dato comunque l'opportunità di fare questo lavoro fantastico. Grazie. Un ringraziamento speciale lo devo fare io. Fammelo, posso? Fammelo. No, veramente volevo farlo all'architetto Roberto Telesforo. Sì. Perché? Perché lui, con i suoi complimenti a fine di ogni puntata, ci ha davvero stimolato il suo gruppo di ascolto, anche con le sue critiche, perché non è un tipo. Guarda, le critiche le faceva solo a me, a voi ha fatto solo i complimenti e lo so per certo. Addirittura a Tromba gli ha fatto un regalone. Dimmi un po'. Infatti lo devo ringraziare perché mi ha inviato questi volumi fantastici. Proprio da collezionisti di riviste di musica jazz, veramente categorizzate già per ordine alfabetico, per strumenti, molto belle, molto interessanti, grazie. Va bene, e allora volete ringraziare anche i vostri parenti, visto che ormai è diventato un programma a conduzione familiare. Ormai sì. Sì, grazie a tutti voi per l'affetto, per la stima, per i messaggi, anche per le critiche piccole e grandi che ci avete fatto. fatto, però insomma hanno sempre stimolato la nostra professione, sempre abbiamo tentato di essere naturali e di essere rispettosi nei confronti della musica e degli artisti che ci piacciono. Quindi grazie anche a tutti gli artisti che hanno partecipato e grazie anche certamente a Radio 24, a tutto lo staff tecnico guidato da Silvio Lorenzi. Voglio poi ringraziare un amico personale del nostro soundcheck che è anche stato un abile pusher di discografia, ci ha proposto tante cose soprattutto sul versante hip hop ed elettronico, che è il nostro amico disc jockey Alex Paletta, e ringraziare tutta la direzione di Radio 24 per la stima e per averci dato ancora una volta carta bianca. Ci siamo ancora una volta espressi in libertà e quindi lavorando nelle migliori condizioni possibili. Poi grazie anche a tutto lo staff del Groovemaster Studio, persone che voi non avete incontrato e non avete conosciuto radiofonicamente, ma che sono stati importanti per la realizzazione di questa stagione di radio. Vi lasciamo però con grande musica, con la voce di un altro grande talento, forse la voce più quotata in questo momento, visto che ha vinto premi e che ce la ritroviamo in alcuni dei festival più importanti, e si tratta di questa ragazza buffissima, devo dire, anche nella vocalità. È vero. Molto originale, una brava improvvisatrice, l'album non mi ha fatto impazzire, però insomma stiamo al debutto e quindi già possiamo immaginare che cosa combinerà in futuro questa ragazza che si chiama Jazz Mia Horn, con questo nome. Con poi, quel nome che deve fare. È tutto un programma. Certo. Tanto potenziale per lei. Sì. Allora, grazie a tutti, fate una buona estate, viva la musica, viva il soundcheck di Radio 24. A tutti voi un abbraccio affettuoso da Giorgio Telesforo, Silvia Barba e Francesco Tromba. E vai, è andata.